Rock FM, sono le 7 e 30 minuti primi. Qualche problema? If you have a problem, if no one else can help, and if you can find them, maybe you can hire the A-Team. Siamo qua per voi, eh? Attenzione, amici ed amiche, è iniziata una nuova settimana di pane, burro e rock and roll. Sarà una missione impossibile arrivare fino a venerdì. Attenzione, attenzione! Vi copriremo le spalle dalle frequenze di Rock FM. Non temete, vi staremo vicini. Andiamo avanti con la trasmissione che è meglio. Ringrazio gli amici che già ci contattano al 335-100-7777. Dicevo, scandalo patenti, sentite qua cosa mi scrivono. Sono fiero di esserci, mio caro cialtrone, ho la patente non timbrata. Se mi beccano, mi fanno vedere il cielo a strisce. C'è una patente non timbrata in giro, questa cosa mi getta nello sconforto. Ho messo la sveglia alle 6.55 per sentire pane, burro e rock and roll e vado a lavoro alle 14. Non c'è limite alla demenza. Patente 604 ricevuta per vie traverse. Ragazzi, sento puzza di marcio, ricevuta per vie traverse. Ma non era tutto legale, preciso. Aia, aia, puzza di brogli stamattina. Indagheremo, amici, indagheremo. E intanto, shout it out loud, i Kiss! Grande orgoglio, devo confessarglielo, caro sì. Freak, la scoperta in questo spazio radiofonico mattutino di quanti bambini ascoltano la nostra trasmissione nel tragitto, insieme ai loro genitori, dalla casa all'asilo, alla scuola. Importantissimo il contatto con le nuove generazioni. Assolutamente, siamo riusciti, grazie alla redazione, a rintracciare uno di questi piccoli fan di Rock FM, dovremmo averlo in linea, credo, si chiami Francesco, ciao Francesco! Andò! Ciao. Ma si sente? Francesco, Mando. Ti sentiamo. Sì, sì, sì, si sente. Sei in radio, sì. Benvenuto a Rock FM. Francesco, quanti anni hai? Sì. È quasi 5, 4 e mezzo. Che tenerezza. Giovanissimo, complimenti. Ciao Francesco, siamo veramente... Sì, però mi piace il metal, metal, io voglio il metal. Ti piace il metal? Beh, a volte lo programmiamo qui, sì, qui, sì, qui sì, a Rock FM. Ascolti spesso la radio, Francesco? Sì, però io vorrei ascoltarla di più, sempre, io solo Rock FM, io non voglio andare a scuola, non ci voglio andare a scuola, no, no. È un piccolo ribelle, metal, metal. Metal, vuole ascoltare... Bisogna anche andare a scuola. Per ascoltare heavy metal magari in classe, però bisogna andarci. Senti, piccolo Francesco, dove sei? Nel tragitto casa-asilo? Sto in macchina. In macchina? Sì. Oh, chi c'è in macchina con te? C'è mamma, no. Ce la passi? No, mamma dorme. Mamma dorme? Sta dormendo in macchina? Sì. E chi guida, scusa? Nessuno. Ma la macchina è ferma, spero, Francesco. No, no, sta andando. Ma come sta andando? No, Ma Francesco, fermati, è pericolosissimo. Dovresti tirare il freno a mano. No, non ci vuoi andare a scuola, no. Non ci vuoi andare a scuola. Ma scusa, ma la mamma, ma perché sta dormendo in macchina? Io ho le gocce. Le gocce? Cosa Francesco, cosa hai fatto? Le gocce, io do le gocce. Io non ci voglio andare a scuola. Ce ne andai, allora che fai? Francesco. No, Francesco, pronto. È caduta la linea, Frick. Ma è incredibile. No, ma questo rintracciate subito il numero di Francesco, Siamo preoccupati, bisogna richiamarlo subito. Chiamiamo subito. Corriamo in redazione. Vai, vai. Sanitaria. Vai, Spadino, con la musica. E beh, che c'è? Little ditty about Jack and Diane, two American kids growing up in the heartland. Jackie gonna be a football star, Diane's debutante backseat of Jackie's car. Sucking on chili dog outside taste freeze. Diane sitting on Jackie's lap, got his hands between his knees. Jackie say, hey Diane, let's run off behind the shady trees. Dribble off those Bobby Brooks, let me do what I please. Say, oh yeah, life goes on long after the thrill of living is gone. Say, oh yeah, life goes on long after the thrill of living is gone. They walk on. Jackie sits back, flexes thoughts for the moment, scratches his head and does his best James Dean. Well, then there Diane gotta run off to city. Diane says, baby, you ain't missing nothing. Jackie say, oh yeah, life goes on long after the thrill of living is gone. Oh yeah, I say life goes on long after the thrill of living is gone. Hold on to 16 as long as you can. Diane. Two American kids doing best they can. Jack and Diane, John Mellencamp, nella diretta di stamane dalle frequenze di Rock FM. Eccoci pronti ad accompagnarvi fino alle 9 del mattino. Vi aspettiamo a braccia aperte, abbiamo bisogno di voi. Vi ricordo velocemente che settimana scorsa abbiamo inaugurato una delle prossime crociate della nostra trasmissione radiofonica. Dopo esserci schierati a favore della cartolina postale, sembra che il prossimo obiettivo sia schierarci contro il soft porno imperante nelle edicole delle nostre città. Mentre si avvicina l'inverno, fioriscono i calendari e noi di Pane, Burro e Rock and Roll non ci stiamo. Lancio di nuovo l'appello: abbiamo bisogno di qualcuno là fuori che, per far diminuire il numero di calendari venduti, ce li descriva via radio. Donne nude alla radio. In realtà stiamo cercando anche uomini nudi alla radio, quindi se c'è qualche radioascoltatrice o qualche maschietto che apprezza i maschietti tutti nudi, vi aspettiamo al 335 100 77 77. Leggo preoccupazione per il piccolo Francesco. La redazione lo ha già ricontattato, è tutto a posto. La madre si è svegliata, per fortuna. Un saluto a Borgotaro da Torvanica. Un saluto anche a Daniele da Milano, che ci suggerisce una domanda per il test attitudinale. Grazie. Ne abbiamo bisogno più che mai di domande per il test attitudinale, perché siamo a 109 puntate. Questo vuol dire che a oggi abbiamo presentato 109 test attitudinali. Insomma, è sempre più dura prepararne degli altri, ma noi siamo pronti a farlo. Un saluto anche a Mario dalla provincia di Genova, all'amico melanese contento del risveglio targato Radiohead, e un abbraccio anche a Dandy. Bravi, bravi. La sua domanda è: ma tra casa e lì perdete sempre qualche rotella? Sì, in realtà sì. Il viaggio è anche abbastanza lungo, sarà per quello. 7:43 minuti primi, ecco quando la giornata si fa più difficile, quando il nostro lampione crepuscolare si spegne, già spento da qualche minuto, e noi allora rispondiamo così: Dancing in the dark, ballando nel buio. Che ce frega se il lampione si spegne? Noi siamo pronti per una nuova avventura, il boss! And I ain't got nothing to say. I come home in the morning, I go to bed feeling the same way. I ain't nothing but tired. Man, I'm just tired and bored with myself. Hey there, baby, I could use just a little help. You can't start a fire. You can't start a fire without a spark. This gun's for hire. Even if we're just dancing in the dark. Messages keep getting clearer. Radio's on and I'm moving around my place. I check my look in the mirror. Wanna change my clothes, my hair, my face, and I ain't getting nowhere. I'm just living in a dump like this. There's something happening somewhere. Baby, I just know. Come al solito il ringraziamento alla nostra alacre redazione giornalistica. Ed in particolare allo stagista staccanovista Isaac Rizzi. Un applauso per Isaac. Uno solo, Isacco. Via. Lunedì 15 ottobre, nella data odierna, ci ricorda un grande anniversario. Certo. Sa certo. Cosa succedeva il 15 ottobre del 1940? Ma sì, grazie ai fogli della redazione, anch'io lo so. Usciva nelle sale cinematografiche, lo dico io, tanto certo. Perché c'ho il foglio io, Il grande dittatore. Di Charlie Chaplin, nel quale appunto il grandissimo attore, regista, scrittore dei suoi stessi film, quindi sceneggiatore e soggettista, individua perfettamente la situazione storica del periodo e anticipa con una lungimiranza, vorrei sembrare un po' un critico cinematografico, lo sembra. Anticipa con rara lungimiranza. Perfetto. Quello che avverrà da lì a poco, e cioè la Germania nazista. Sa che è stato il primo film sonoro di Chaplin? No, non lo sapevo. Che da 10 anni ormai era nel muto. Scopriamo anche che dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale Chaplin ebbe a dire che se all'epoca della lavorazione del film avesse conosciuto la realtà del nazismo e le atrocità dell'Olocausto, probabilmente non se la sarebbe sentita di realizzare un film comico su quell'evento. Questo per far capire quanto in realtà Chaplin, senza sapere cosa stava realmente accadendo, avesse un occhio così lucido sulla situazione. Un paio le scene indimenticabili, sicuramente il discorso di Chaplin Hitler alla folla completamente improvvisato, e poi, maestro, il mappamondo, la danza col mappamondo. Il mappamondo, mentre sappiamo che nella realtà, in questo naturalmente, bene, il film in realtà è romanzato ovviamente, ma molto vicina ad essere completamente vera, ma sappiamo che invece Hitler preparava accuratissimamente allo specchio tutti i suoi discorsi, mossa per mossa, curando anche proprio una specie di scenografia personale, insomma. Napoloni è straordinario perché rappresenta il buon tempone italiota che batte continuamente sulle spalle l'impeccabile nazista. E bravo Frick, è stato con colpetto, è stato un piacere ricordare l'anniversario del grande dittatore. Mi dispiace, ma io non voglio fare l'imperatore. Non è il mio mestiere. Non voglio governare né conquistare nessuno. Vorrei aiutare tutti se possibile. Ebrei, ariani, uomini neri e bianchi. Tutti noi esseri umani dovremmo aiutarci sempre. Dovremmo godere soltanto della felicità del prossimo. Non odiarci e disprezzarci l'un l'altro. L'avidità ha avvelenato i nostri cuori. Ha precipitato il mondo nell'odio. Ci ha condotti a passo d'oca a fare le cose più abiette. Abbiamo i mezzi per spaziare, ma ci siamo chiusi in noi stessi. La macchina dell'abbondanza ci ha dato povertà. La scienza ci ha trasformati in cinici, l'abilità ci ha resi duri e cattivi. Pensiamo troppo e sentiamo poco. Più che macchinari ci serve umanità. Più che abilità ci serve bontà e gentilezza. Senza queste qualità la vita è violenza e tutto è perduto. L'aviazione e la radio hanno riavvicinato le genti. La natura stessa di queste invenzioni reclama la bontà nell'uomo, reclama la fratellanza universale, l'unione dell'umanità. Perfino ora la mia voce raggiunge milioni di persone nel mondo, milioni di uomini, donne e bambini disperati, vittime di un sistema che impone agli uomini di torturare e imprigionare gente innocente. A coloro che mi odono io dico, non disperate. L'avidità che ci comanda è solamente un male passeggero. L'amarezza di uomini che temono le vie del progresso umano. L'odio degli uomini scompare insieme ai dittatori, e il potere che hanno tolto al popolo ritornerà al popolo, e qualsiasi mezzo usino, la libertà non può essere soppressa. It's a little bit funny, this feeling inside. I'm not one of those who can easily hide. I don't have much money, but boy, if I did, I'd buy a big house where both could live. If I was a sculptor, but then again, no, or a man who makes potions in a traveling show. I know it's not much, but it's the best I can do. My gift is my song, and this one's for you. And you can tell everybody this is your song. It may be quite simple, but now that it's done, I hope you don't mind, I hope you don't mind that I put down the words how wonderful life is while you're in the world. The verses, well, they've got me quite cross. But the sun's been quite kind while I wrote this song. It's for people like you that keep it turned on. So excuse me for getting, but these things I do. See, I've forgotten if they're green or they're blue. Anyway, the thing is, what I really mean, yours are the sweetest eyes I've ever seen. And you can tell everybody this is your song. It may be quite simple, but now that it's done, I hope you don't mind, I hope you don't mind that I put down in the words how wonderful life is while you're in the world. I hope you don't mind, I hope you don't mind that I put down in the world. Ok, tutti insieme. How wonderful life is while you're in the world. Sir Elton John e il miele per il vostro caffè, lo zucchero per il vostro cappuccino. Your Song, 5 minuti alle 8 spaccate. Puntata delirante, come ormai nelle ultime settimane. Avete notato come il buon Spadino si stia dando da fare per aiutarci nella costruzione di questo programma, il nostro mitico regista. A proposito di film, mi riferisco all'intervento del grande dittatore appena andato in onda, vi segnalo che da questa settimana Pane, Burro e Rock and Roll, nel tentativo così di sfruttare il mezzo radiofonico per farvi sognare, per farvi ritrovare quel sorriso che avevate archiviato nella mente, decide di proporvi un film alla settimana. È scoperta dell'acqua calda, però così, una proposta della redazione che abbiamo accettato è appunto avere un film a settimana che ci terrà compagnia con 1-2 interventi nel corso delle 2 ore. Non so se, ma no, non lo svelo il film di oggi. Vi faremo sentire un breve frame alle 8 precise per il risveglio della seconda tranche di radioascoltatori. Questa è un'altra delle tante novità che inizieremo quest'oggi. Vi attendiamo sempre al 335-100-7777. Che state combinando? Che cosa volete che Pane, Burro e Rock and Roll faccia per voi? Ditecelo! I'm not content to be with you in the daytime. Girl, I want to be with you all of the time. that you and me last forever. Oh yeah, all day and night I'm yours, leave me never. Caporogna, tremate umani, la vendetta di noi topi, di noi cavie, sarà terribile. Riporteremo indietro il vostro orologio della storia, umani. Certo, noi trasportiamo la pulce della peste, ve lo siete dimenticati? Pensate di averla debellata, invece no, abbiamo nuove pulci, nuove pesti. Ci sarà la nuova invasione della peste 2007, tremate umani. Vi annienteremo noi topi, noi topolini di laboratorio, noi cavie, tremate! Potere cavia, potere topo!